Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Facciamo un delirio! Buonasera! Buonasera Giuseppe, come va? Mamma come mia, va? Quanto come tempo, va? Quanto tempo, non ma c'è come male. Va Giuseppe, come non va? C'è ancora male. Vivo è questo qui? Ancora vivo, sticchio di tesoro, che minchia vuol dire ancora vivo, miserabile. Cioè, vedi come parte male? Io dico buonasera e sto ancora vivo, Amo come attacco un gatto e cugliuna, va? Cuglionazzo, sogno ancora in circolazione, non ti preoccupare, trombo come un riccio da mattina a sera. A me piace la figa, non ci posso fare niente. Che cazzo ci posso fare? Cruciani, stiamo ascoltando in podcast da Shanghai la zanzara. Noi siamo qui sul letto che ci facciamo massaggiare da due belle cinesine che ce l'hanno presa appena a mano e ce lo stanno menando. Un saluto a te, Apparenzo Cruciani. Massaggio tutto, solo culo niente, capito? Sì, questo l'ho capito, c'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Giuseppe, ma tu lo sai che è tornato di moda il pelo? Caro David, sono amico mio. Oggi col morale bassissimo. Ma che c'è ogni volta? Bassissimo. Arrivi alle 18:35, 18:36. Non mi fare parlare come Carmine. Sono ho preso la parlata di Carmine, capito? Esatto. Poi risento che il regista è sempre lo stesso. Ve lo deduco, diciamo, sempre lo stesso. Sì. Da questo 1-2-1-2 sì. Che ha infilato. Da questo uppercut, come si dice? Sì, uppercut. Bravo, so uppercut. Si pronuncia, sì. Vabbè, quello che è. E quindi va bene. Come iniziamo allora? Io pensavo ci fosse, no, un commento di Massimo Giannini, editorialista della Repubblica, sulla questione relativa anche all'inchiesta giudiziaria Consip. No, invece pensavo... partiamo da una cosa. Ho visto, adesso ti faccio scaldare subito, dato che sì. Appena senti queste cose tu mi deprimi perché pensi alla solita puntata in cui si parla di sesso, eccetera. Mi eccetera. Deprimo in generale. In realtà se ne parlerà poco. Poco, adesso vediamo poi come evolve la situazione. Ti ho visto veramente... Sì. Veramente rabbioso contro oggi il povero centinaio della Lega. Oggi mi sono arrabbiato. Cioè l'hai attaccato veramente hai lottato. Ma stavo male dentro proprio. Ma sì, ma è la solita cosa, la Lega razzista. Mamma mia, sei sempre insisti sempre sulle stesse cose. Comunque risentiamo tutto. Alla 7, alla Reghettina, Parenzo contro centinaio. Qual è l'argomento in discussione? Secondo Parenzo, la Lega è sostanzialmente razzista, fomenta il razzismo in Italia, perché per esempio Salvini ha detto una volta qui alla Zanzara che darebbe le noccioline insieme al gelato. Sì. Ai migranti che vengono riportati in spiaggia, praticamente vengono respinti dall'Italia e portati sulle oggetti, le parole. Vabbè. Ma l'importante è la sostanza, la sostanza. Vabbè, comunque Parenzo contro centinaio, dai. Scaricateli in spiaggia con un po' di noccioline, parlando di migranti. Posso dire che è razzismo o no? Scaricateli come fossero delle bestie in una spiaggia e tirate delle noccioline. Un leader politico può usare questo linguaggio? No, mi accaloro perché su questo tema non si può scherzare. No, non devi sbuffare, devi andare a Lampedusa a vedere le bare bianche dei bambini che arrivano morti e poi non dovete fare il piagnisteo. No, non dovete fare così. Le noccioline le devi lanciare allo zoo, che hai capito? Fame, mentre tu sei in televisione a raccontare minchiate. Ma che... Come lotta, come Lotta, sei guarda, in televisione guarda, a raccontare minchiate. Telefono. No, no, ero qua al telefono adesso con l'amico Maiorino, peraltro, che era qui al telefono con me tutti adesso. Tutti gli amici tuoi, tutti amici voglio, tuoi no, questi qua. L'ottimo assessore di Milano. Vabbè. Perché parteciperò alla manifestazione importante che ha lanciato che a Milano. Che manifestazione? Che manifestazione? Quella che ci sarà con a favore dei per i rifugiati per e per ricordare. Ma perché uno deve fare una manifestazione per i rifugiati e per i migranti? Milano, che bisogno c'è? No, per fare un'accoglienza giusta. Ma chi se ne primo. Frega, ma già la fanno. Secondo fammi Milano sentire. È la città che in Italia più ha fatto per l'accoglienza. Ma che fai, militante politico fai? No, militante politico. Io nessun militante. Ma perché non civile, fai partito civile, forza migranti? Militante civile, forza, no, forza migranti. Migranti. Fai. I migranti sono un dato di fatto. Ma fai. Sarebbe come dire forza sole. No. Ma dici, ma il sole fai partito o no, forza mattina? Migranti. Forza luce. Forza migranti. La luce la mattina, viva Dio, c'è o no? Sì, forza. Allora non puoi dire forza. Vuoi accogliere tutti, vuoi accogliere. Ma non puoi dire forza ciò che è nelle cose. Fai forza migranti, forza migranti. Fai, forza tu, migranti. Ma tu fai forza. Vai Donato ancora, Parenzo Centinaia, vai. Posso? Sì. Senza che il fenomeno continui a parlare? Allora, no, fenomeno sei tu. No, sei fenomeno perché parli solo tu. Parla solo tu. Lancia. Quando uno parla tu intervieni e interrompi. Lancia le noccioline, sempre. Lancia le noccioline. Lancia dai, le noccioline. Lancio anche le noci di cocco, ti lancio anche se vuoi, ti porto la prossima volta la frutta secca, se vuoi, te la porto. Lancia. Così almeno sei contento. Noi siamo i razzisti, benissimo. Allora, la glossa delle parole di Salvini. Io mi prendo del razzista. Beh, sono contento di essere razzista. Se quello che sento è quello che vedo in studio, va bene, io sono un razzista. Perfetto. Questo, io tutelo almeno gli italiani. Un atto di ammissione, almeno. A Lampedusa ci sono andato a raccontare quegli sbarchi. Hai capito o no? A raccontare. Ma dai. Va in giro per l'Italia a guardare gli italiani. Noccioline. Gli italiani. Ma che c'entra? Ma che cosa c'entra? Le noccioline e i bambini che muoiono in mare. Vai a vedere quei cadaveri sulle spiagge. Nessuno. Ma vergogna. Nessuno. Noccioline. Le noccioline ai bambini che sbarcano, dai. Hai espresso ma non si può sentire. Chiarissima. Comunque ragazzi, sempre con questa retorica delle bare bianche a Lampedusa avete rotto i coglioni, devo dirti la verità, avete rotto i coglioni con questa retorica. Le bare bianche a Lampedusa. Vai a vederlo. E allora portate le scuole, quella roba. Sì, la necrofilia a scuola. E allora cambierete opinione. Quando vedrete il cimitero di Lampedusa. Su che cosa cambieremo quando opinione? Quando vedrete il cimitero di Lampedusa e la data di nascita e di morte. Vabbè, la gente muore. Soluzioni non avete. Come non avete? Certo, fare i ponti con le navi e andare a prenderli prima che si imbarchino. Questa è la soluzione. Per evitare più morti possibili. Comunque ragazzi, pare che il Palermo, anche se ci sono dei dubbi, abbia un nuovo presidente. Un nuovo presidente, amico mio! Questo rischia di essere perché adesso ci sono delle smentite negli ultimi minuti, nelle ultime ore, eccetera, rischia di essere un personaggio veramente eccezionale. Si chiama Paul Baccaglini. Innanzitutto è tutto tatuato, però dice vabbè, l'abito non fa il monaco, questo, chi se ne frega. Beh, amico mio, però anche quello conta, per carità. Non è che gli uomini in grisaglia, gli uomini in giacca e cravatta hanno fatto dei danni terribili, naturalmente, appunto, anche nel calcio, per carità. Appunto, esatto. Dunque, questo non c'entra nulla. Però, certo, non si presenta bene. Pare che negli ultimi tempi abbia fatto dei soldi con i fondi di investimento. Questo Paul Baccaglini in realtà era un inviato delle Iene. Per un anno, uno dice, poi ha fatto i soldi, va bene. Però faceva l'inviato delle Iene facendo interviste demenziali davanti a Montecitorio, un po' come, che ne so, come se il signor Filippo Roma o come se il signor, che ne so, l'altro Golia diventasse presidente di una squadra di pallone, perché magari c'ha i soldi, importante sono i piccioli, come si dice a Palermo, importante che abbia i piccioli. Comunque, questo tipo di interviste che faceva davanti a Montecitorio con la signora Mussolini, per esempio, senti, presidente del Palermo, neopresidente fino a prova contraria. Ma lei, onorevole, va mai in disco? No. Ma lei, onorevole, balla mai sul cubo? Senti, lasciamo perdere. Mi fa vedere il suo cubo? Fallo vedere tu il tuo cubo. Certo, subito, ecco il mio cubo. Ora lei. Tu sei matto, lo sai, sì. Giovani, sono a casa con il mojito verso il cielo! Lei dove tiene il suo mojito? Ma che è il mojito? Il mojito è la bibita dei giovani! È benzina! Ma è una cosa alcolica? Sì, molto! E allora non vanno presi questi bibitoni. Ora ripeto, per carità, le persone in 10 anni possono cambiare, però. Ho capito, ma non è il presidente della Treccani, però mi permetto di dire. Che c'entra il presidente della Treccani? No, è il presidente del Palermo. Ma no, per dire, non è il presidente. Sì, per carità. Lo showman, anche un po' femminario, perché pare che gli piacciono molto le donne, è un prototipo del nostro calcio. È un prototipo del nostro calcio. Importante che abbia i piccioli. Però certo, passare da Zamparini a uno tutto tatuato, c'ha una Madonna sulla parte destra. Fa il presidente del Palermo, sulla parte sinistra. Non fa il presidente dell'Accademia della Crusca. Non mi pare. No, ma no, amico mio, però anche un minimo, no? Un minimo, uno tutto tatuato che si è fatto fotografare con tutti i limoni addosso, così, tutto nudo. No, ma va benissimo, è fantastico. Per noi è fantastico, un personaggio eccezionale. Paul Baccaglini. Paul Baccaglini, già dal nome, cioè, sì, è straordinario. Beh, insomma, Baccanali, cioè, ricordi Baccanali, il Baccano, il Baccano, Paul Baccaglini. Bellissimo. Ed ora Zanzarosi, il momento più atteso, il traffico! Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Zanzara. Semplicissimo. Se volete prenotarvi per un'orgia con Carmine da Roma e Cruciani, con la possibilità di prenderlo nel culo, o volete andare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 0024. Se invece volete prenotarvi per un'orgia con Parenzo, con la certezza che Parenzo lo prenda nel culo, o volete andare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al Anal Top. Allora, passiamo dagli questo annunci. Questo qua vedo che aggiorna in continuazione il suo. Sì, esatto. No? Questa il suo... è una virata sull'Anal. Il è una suo virata promo, sull'anal. Vedo il suo promo. Sì. Allora, caos Partito Democratico. Qui abbiamo la cosa incredibile, caro Parenzo. Diciamola questa cosa, una cosa seria. Diciamola. Abbiamo perché lo chiamo caos? Perché abbiamo 3 candidati alla segreteria del PD, che fino a prova contraria, diciamo, il primo o il secondo partito italiano. Comunque un partito dal 26 al 30%, un partito che sarà comunque decisivo, no? Per il prossimo governo. Quando ci saranno le elezioni, quando ci faranno votare. Allora, abbiamo 3 persone. Uno che si chiama Renzi, signor Renzi, il quale ha il padre indagato, per quello che sappiamo, per la vicenda della Consip. Chiaro. 2. Abbiamo il signor Andrea Orlando, che è il ministro della giustizia, dunque sostanzialmente il capo dei magistrati, no? Cioè col CSM, il capo dei magistrati è un po' esagerato. Può ordinare ispezioni, può fare, cioè, potere, vero, interessante. Il ministro della giustizia. Anche di Renzi è stato ministro della giustizia, oltre che adesso del governo Gentiloni. Poi abbiamo, pensa che casino pazzesco che hanno creato, forse anche involontariamente, però si è creato questo casino. Il signor Emiliano, magistrato in aspettativa, magistrato dunque... Ma testimone? Ma testimone del processo Consip per la storia degli SMS, eccetera, eccetera, ma nello stesso tempo dice che Orlando è in conflitto di interessi. Cioè lui, magistrato in aspettativa, dice di uno dei suoi avversari che è in conflitto di interessi, doveva avere detto a Renzi che invece è uno che ha creato il giglio magico, gli interessi. Una cosa pazzesca, dai. Si stanno facendo del male da soli, questa è la realtà, si stanno massacrando da soli. Oh, Grillo ha maramaldeggiato, ha attaccato Renzi sulla questione del padre, secondo me anche in maniera ridicola, per la frase che Renzi ha pronunciato venerdì sera dalla Gruber, in cui ha detto che chiede la pena doppia per il padre. Secondo me Renzi intendeva un'altra cosa. È ma una, dire, è una frase dire... brutta, esatto. Certo. Non è che vuole la pena doppia sul serio. Alcuni hanno detto Renzi non è garantista, eccetera, vuole davvero la pena doppia. Ha detto voglio la pena doppia per mio padre perché se ha sbagliato merita di essere punito severamente dalla giustizia. Certo. Non è che vuole, se lo condannano a 3 anni ne vuole 6 di anni. Ovviamente non è questo che intendeva Renzi, no? Vabbè, comunque sentiamo Renzi. Per me, quando c'è un processo, i cittadini sono tutti uguali. Anzi, se mio padre ha commesso qualcosa, non soltanto è giusto che vada a processo subito. Mi piacerebbe pensare che se fosse davvero colpevole, dovrebbe avere una pena doppia. Ragazzi, nel weekend ho visto anche una manifestazione di alcuni vegani. Io ogni volta non vorrei più pronunciare questa parola, Parenzo, perché la discussione per me è finita, però rischia di durare fino all'eternità. Un gruppo di nazi vegani, un gruppo di estremisti, come al solito, c'era l'amico nostro, il solito Vassallo, c'erano altri, probabilmente nulla facenti. Che cazzo vanno a fare la domenica in giro a rompere i coglioni, o la domenica, il sabato, non so quand'era, o magari un giorno feriale, adesso non si sa mai quando vanno in giro questi qua, a bloccare un lavoratore, un signore che porta gli agnelli, credo, le mucche, le portava, non so se al macello, in un'azienda, col camion, un lavoratore, uno col camion, che lavorava, adesso io non so, non voglio fare la retorica operaista, che non mi si addice, ma uno che si faceva un mazzo così, la schiena rotta, col camion, a portare gli animali, sì, perché c'è gente pure che trasporta gli animali, e questi cos'è che gli dicevano? Assassino, assassino, ma vi dovete vergognare! Vi dovete vergognare come ladri, vi dovreste mettere davanti, dovreste andare a questo a chiedere scusa 100 volte davanti a questo lavoratore che si fa un mazzo così col camion e voi non fate un cazzo dalla mattina alla sera. Molto state bene. Lì con queste magliette nere, vi attaccate al camion e vi mettete a piangere vedendo gli agnelli, carino carino, non fate un cazzo dalla mattina alla sera e vi mettete a rompere i coglioni alla gente che lavora, alla gente che si fa un culo così sul camion che voi non sapete nemmeno che cos'è, amici camionisti da tutta Italia, questi sono dei pazzi. La prossima volta che vedete qualcuno che sfreccia davanti a voi, non vi fermate, amici miei, non vi fermate. No, vabbè, questo non si può dire, dai. Ma non vi fermate, nel senso, non è che metteteli sotto, non vi fermate, non è che dovete metterli sotto, non vi fermate, non state lì a trattare, a fare, a parlare, non vi fermate, andate avanti, proseguite verso l'azienda. Togliti questo viso dalla faccia! Assassino! Assassino! Assassino! Assassino! Assassino! Cioè, tu capisci che uno si sente dire assassino? Dai, da questi quattro coglioni, da questi quattro imbecilli, un lavoratore, un operaio che prende 700 euro, 800 euro, 900 euro, ripeto, faccio una retorica operaista che non faccio mai, che si vede davanti quattro ragazzini, tra cui Vassallo, che fanno assassino, ma tu dimmi se uno non deve andare davanti col camion, no, ma no, investirli, andare avanti, non fermarsi, no, ma se c'è qualcuno che insiste, ma andarselo a lavorare, ma soprattutto la polizia e i carabinieri che sono andati lì, la polizia e i carabinieri che sono andati lì, amico mio, ma cosa hanno fatto? Sono stati, ho visto un'ora là, ma perché non sgomberano 30 persone? Tutto, sì, ma certo, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Chi c'è qua avanti? Chi c'è? Chi c'è? Davide da Cagliari, dai Davide, già mi sono scaldato, dai Davide. Pronto? Dimmi, pronto? Dimmi Davide, dimmi. Mi sentite? Sì. Pronto? Ma non è che sono di Cagliari proprio, sono della provincia. Gorre Savurca. Sì. Vicino a Cagliari ci si arriva con una breve passeggiata in macchina. Allora, io vi sto chiamando perché c'è una cosa importantissima che devo dire a voi, perché voi non sapete. E ha già perso tre minuti intanto. Aspetta che si sente un si sente un piccolo rimbombo, sempre se tu sei vero, perché qui abbiamo il dubbio, qui noi siamo amico mio, non ripeto per l'ennesima volta, non bisogna venire a rubare a casa dei ladri. Perché i ladri sono più abili dei furfanti. Ma scusa, poco a poco, se tu mi fai parlare e capisci sì, ma sento un rimbombo dietro, dimmi. Allora, io prima di tutto ho da dire una cosa importantissima, che è anche un ringraziamento a voi altri, perché voi fate un programma che fa cagare, ma proprio per questo motivo, io avevo un problema, siccome noi di famiglia abbiamo un ovile, abbiamo quasi 200 capi di pecore. Di pecore, sì. Bene. Avevo un periodo terribile dove la pecora, la pecora mangiava e non riusciva a fare il latte. Beh, quello è un problema, certamente è un problema. Problema serio. Noi viviamo di pastorizia, viviamo di quello che queste pecore ci danno, cerchiamo di coccolarle fare, ma alla fine se non danno il latte è un cazzo del culo. Se tu dona uso, è un casino, comunque, è un casino, sì. Detto questo, sì. Io cosa ho fatto? Siccome la pecora non mi andava di corpo, hai messo la zanzara a tutto volume. Tu lo sai che adesso ti ho risolto. Hai risolto il problema? Ho risolto il problema, perché le pecore adesso vanno di corpo, che è una meraviglia. Infatti lo sai cosa voglio fare per l'amico Parenzo? E dunque il latte? Il latte com'è? Buono, buono, per l'amico Parenzo abbiamo preparato una bella busta con una scatola per fargli vedere come va di corpo la pecora. Gliela sto preparando e gliela mandiamo, così lui, ottimo, insomma, c'ha anche un bel trofeo. Quello che ottimo concime per le mie piante. Cosa? Sul balcone, grazie. Cosa ne pensi? Penso che siccome ho un terrazzo con delle piante, penso che sia un regalo gradito e un ottimo concime da utilizzare, quindi ma grazie. Guarda, io sono molto contento di questa molto cosa. Bene, molto contento. Bene. Ma lei deve... Scusate che c'è... Sì, no, Davide, però questo è interessante come cosa. Cioè, tu stai dicendo che grazie a questa trasmissione che fa cagare, tu dici, e io posso anche concordare con te. No, ma posso anche concordare. Cioè, quindi risulta realizzare un prodotto. Cioè, realizziamo un prodotto. In questo caso, qualcosa di buono l'avete fatto. Bene. Almeno io parlo dal mio punto di vista. Noi che su Rasaburca abbiamo, insomma, allora facciamo latte, una bella ordinazione di latte di pecora, di pecora, sì, di ricotta, eccetera. Sì, nel Monterosa 91, sempre lo stesso. Monterosa 91, 20, 149 a Milano. Con le mie mani, dopo che ho fatto il bidet alle pecore, mi metto a fare la ricotta. Ma guarda, che noi io gradisco anche quella con le mani col bidet di pecora, non c'è nessun problema. Tanto poi tutto rientra nella grande ma guarda, io natura. Nella natura, fermo lì. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top. Ciao, Ricchione. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta La Zanzara. Salve, mi può passare il signor Hitler? No, il signor Hitler è occupato. Ah, ok. Mi può passare allora il signor Satana? No, anche lui è occupato. Le posso passare il signor Cruciani, se vuole. Non puntavo a qualcosa di così malvagio, ma avrei preferito parlare con qualcuno di più moderato. No, guardi, le assicuro che è uguale. Ah, vabbè, se è uguale... Ho davanti una macchina che ha sul lunotto posteriore una scritta a caratteri cubitali: scegli Gesù Cristo. Adesso vado a casa, ne faccio una con scritto scegli la zanzara. Siamo al top. Ieri sera al The Cage di Livorno si è esibito bello figo facendo sold out. Come prevedibile non è successo un cazzo di niente, quindi in culo a Casa Pound e a tutti i razzisti d'Italia. Vi faccio i complimenti a voi organizzatori dell'evento che avete tirato fuori le palle per una volta, e un saluto a Crucianone, Parenzone e un abbraccio dalla maggioranza silenziosa. Siamo al top! Ciccio! Al vecchio ottantenne di Cervia, beccato dalla polizia in compagnia di una prostituta rumena e quindi multato, niente di meno che per 3.000 euro. A parte la mia personale solidarietà, mi offro di pagargli le spese legali per opporsi a questa infamia. Ciao Crucio. Niente, Francesco Pavone, campione italiano dei 200 farfalla. Ti posso assicurare che tutti pisciano nelle piscine. Tutti i nuotatori di alto livello pisciano nelle piscine. Bene ragazzi, abbiamo ricevuto informazioni fondamentali in questa carrellata. Non so se hai sentito, Parenzo, no? Sì, ho sentito tutto, ottimo. Ma la cosa che più mi incuriosisce, però, se mi posso permettere. Ti puoi permettere tutto. Sapere che il nostro telegiornale, quello che è andato in onda tra le 7 sì, e si chiama tra... Radio Giornale, per l'esattezza, Radio devo giornale, dire. Sì, scusami, sì, telegiornale e la televisione, però è va bene. È diretto, cioè alla regia del signor Pietro Lacorte. Beh, sì. Allora, certo. L'unica domanda che io mi permetto di fare è: Sì. Come mai l'ottimo Pietro Lacorte, quando si trova al timone della regia di questa baracca, inserisce, diciamo così, degli insert audio, dei commentini che poco hanno a che vedere con la tradizione del telegiornale, anzi del radiogiornale testé andato lì in onda. Si rompe i coglioni. È lo stesso Lacorte quello? È lo stesso, si rompe il cazzo. Annoia terribilmente a mandare in onda servizi, cose, eccetera. Manco li sente, solo per capire, vai in automatico. Qui da noi si diverte, è diversa la cosa, no? Qui impiega la sua creatività. Dall'altra parte va così, col segnale, tu, tic tac, tocca, ticker, collegamento. Vabbè, ma che ce frega di questa cosa? Perché devi insistere? No, è solo per parlare sul Lacorte. Ma sì, vabbè, ma uno è anche multitasking, come sai, no? Cioè, può pigiare un tasto e pigiare su un altro tasto, come tu sai bene, no? Allora, Crozza Belpietro, io mi sono visto tutto Crozza venerdì. Bellissima. Crozza Belpietro, devo pagarci un po' di royalties, però, su questa cosa qua. Devono pagarci un po' di royalties, però va bene, lo stesso, noi ce ne fottiamo. Crozza Belpietro, la parodia di Dalla Vostra Parte. Buonasera e benvenuti dalle nostre parti, il programma che sta dalla parte di chi non ha più voglia di fare le assemblee di condominio con Muezzin, il programma perché è stufo che il proprio figlio a scuola prenda 3, il figlio del kebabaro puzzolente musulmano prenda 8, solo perché il figlio del kebabaro ha studiato molto di più. Se vi state chiedendo perché sono in piedi, per il resto ho detto perché avevo una sedia ma mi è stata rubata, è stato un rom forse, non abbiamo le prove, ma la porta è stata forzata con questo violino gigano, serve proprio per forzare le porte. Collegamento con gli abitanti di Rovigo, senti. Io mi collego con gli abitanti di Rovigo, che sono tutti davanti all'ascensore. Massimo, mi senti? Sì, sì, la sento. Buonasera, direttore, ha detto proprio bene. Siamo qui con tutti gli abitanti di Rovigo che vivono nell'ascensore che vedete qui alle mie spalle e mi creda, direttore, che sono veramente arrabbiati. Lo credo. Certo che siamo arrabbiati, è una vergogna. Noi paghiamo le tasse, le paghiamo, non ce la facciamo. La signorina non ci credeva, la signorina. Certo, perché un puttanone pacifista! Esatto. Esatto. Direttore, ma lei permette queste parole? Aspetta, non insultatevi. Poi a un certo punto c'è un collegamento con la Val Prendina, dove gli immigrati hanno rubato tutti i navigatori e la gente vaga senza sapere dove andare. Bentornati, siamo di nuovo qui a parlare di immigrati. Immigrati che hanno wifi, la televisione satellitare gratis, si divertono tutto il giorno a masturbarsi dietro i platani, no? Ma allora dove lo trovano il tempo di commettere crimini? Eppure lo fanno. A Val Prendina, per esempio, i clandestini hanno rubato tutti i navigatori delle automobili e i cittadini non sanno più dove andare. Noi siamo proprio in collegamento con la Val Prendina, dove c'è il nostro Andrea. Andrea! Sì, sì, buonasera, direttore. Guardi, qui in Val Prendina la gente non sa più dove deve andare. È casa mia. Poi, mamma mia, che immagine. Guarda, vedete, sono immagini terribili. Cioè, per colpa degli immigrati a Val Prendina c'è gente che gira intorno da mesi. Quanti mesi è che girano intorno, Andrea? Sì. Dai 4 ai 6 mesi, direttore. Sembrano come zombie. È bello che c'ha delle espressioni di Belpietro che sono esattamente le stesse, eppure lo fanno. La gente non, cioè, eppure lo fanno. Dove trovano il tempo di lui? Eppure lo fanno. Vabbè, ragazzi, dove andiamo? Andiamo Margherita, Genova, dai, Margherita. Ragazzi, che attesa. Dimmi, non ne Margherita, posso più. Che mi successo? Auguro che mi lasciate parlare. Beh, vediamo, dipende. Sempre. Allora, dipende. Sì. Io sono arrabbiatissima da stamattina quando ho assistito a quell'isteria del suo collega nei confronti di Centinaio. Sì, signor Parenzo. Ecco, il signor Parenzo. Sì, eccoci. Ecco. Buonasera, signora. Ha questa ossessione del razzismo. No, nessuna ossessione. Sì, ha ragione, signora. E il suo Netanyahu, che cos'è? Brava, signora. Io ho allevato un figlio che è un uomo di mondo, tratta con gente di tutto il mondo e un giorno mi ha detto ti dico io cosa sono gli ebrei. Cosa ha detto, signora? Se sono su un transatlantico e stanno pescando e sotto ci sei tu con un gozzetto e con la cannetta, tu non devi pescare. cercare. No. Perché? Io ho avuto in casa gente di tutte le razze per mia figlia. Sì, razza, e un'amica sì. turca 30 anni fa ha chiesto 3 volte il visto sì. per gli Stati Uniti. Ma che c'entra, e non sua... c'era ma che c'entra sua figlia? Non gliel'hanno concesso. Ma che c'entra sua figlia? Perché con sua figlia ha avuto gente di tutte le razze? Dico che lui vede il razzismo solo nella no, pensavo Lega. Che sua figlia no, frequentasse no, io... gente di tutte le razze, maschi di tutte le razze. No, ma no, compagni di soggiorni all'estero. Ma che ne so eccetera, io, magari era... Magari, come scusi? Magari amava gli extracomunitari, non lo so, sua figlia. Ecco, non lo so. No, eh. No, cosa c'entra? Li no, per carità. Londra e li stava qui. Non volevo. Non faccia. Guardi, io ascolto la sua trasmissione perché sì. mi diverte. Quel signore che mi ha preceduto da Cagliari sì. mi ha fatto veramente ridere. Beh, sì, poi sì. perché avete una bellissima colonna sonora che anche ecco, se ho 70 ottimo. Anni. Ecco, signora, ma molto. Questi attacchi isterici di Parenzo le hanno dato veramente sì, fastidio, isterico. Mi sembra, no? Come scusi? Gli attacchi isterici di Parenzo le hanno dato veramente fastidio. Veramente fastidio. Beh, e soprattutto li sì. doveva fare semmai sì. a Salvini. A Salvini. Sì. Lì c'era il signor Centinaio. Ebreo carissimo. Ancora, ma chi che se è ne un frega? Gran signore, ricco ma chi come se ne mare, frega? Con una vita dissoluta. Ma chi e se le ne assicuro frega? Che nonostante la sua signorilità si capisce benissimo che si sente superiore. Quindi pianchiamola lì dicendo? Perché io sono stufa. Ma stufa, io sono stufa. Io sono che stufa, abbiamo accolto stufa, in questo paese, stufa, l'abbiamo fatta roba. Studiare a nostre l'abbiamo spese, accolta, dovrebbe la... sentire il dovere morale spese. Di andare a combattere nel suo paese ma e a curare i suoi simili. Ma chi dice? Ma cosa chi si riferisce? È italiana la Chienge, signora ma che mia, c'entra è la Chienge? Italiana. Ma, su, ma non facciamo non l'ha ridere. Fatta studiare è lei con i suoi soldi. Ha studiato, ha pagato le tasse qui, è diventato un almeno vada tra i Medici Senza Frontiere. Italiana, ma quello che fa non lo decide lei. Ma mi faccia il piacere. Guardi, lei. Ma cosa ha da dire lei? Ma non ho da dire che lei è pazza. Cosa c'entra Capalbio? Ma non che vado non a Capalbio io. Gli immigrati. Ma non hanno sbagliato. E che dicono a Capalbio? Guardi, mi faccia piacere. Ma mi sembra di stare tutti. Dalla vostra parte. Ha ragione. Che non vado a Capalbio. Basta, ma non va. Basta, lo dico io. Non vado a Capalbio. Aspetta. Al contrario. Ha ragione signora. Dalla vostra non parte. Ne posso vabbè, più. Lei ha ragione signora, lei sì. ha perfettamente ragione. Chiamo un altro ascoltatore, lei, a parte maledetti. Dice delle porcherie che mi fanno un po' vergognare, esatto. ma io sono fondamentalmente d'accordo, ho avuto 5 furti in fammi casa sentire, dal 2000 in sì, su sì. ecco. Prima io sono nata in questa casa vabbè, ho 70 anni appunto. Dormivamo con le finestre aperte guarda certo, caso sempre, dal 2000 diciamo, con le e non hanno mai durante toccato il fascismo, con la finestra aperta quando signora c'era mia si dormiva signora mia basta lo dico io nel fascismo si dormiva con le finestre aperte perché i furfanti erano al governo ha capito? I ma, ladri erano al governo dice, e quindi si dormiva con le finestre ecco l'altro che arriva è dalla vostra parte guarda sono dalla vostra parte per essere degli antifascisti e finanziamo i partigiani e sono pentita di aver votato Berlinguer. Ma adesso Berlinguer che c'entra cosa me ne frega di quello che ha votato che lei sinistra, che spettacolo immondo danno ma cos'è immondo? Ma è tutto scollegato quello che dice signora no, ma è tutto scollegato perché ma io mi ho faccia mille il piacere e allora le dica ecco, ma con ordine mentale però di avermi ascoltato aspetti signora continuerò ad ascoltarvi molto gentili arrivederci gentili è un corno però cosa vuol dire molto gentili adesso la borsa Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. Caro Cruciano, ti volevo chiamare perché la mattina ho dei problemi per andare al cesso, ma quando ci vado verso le 10, me faccio un grandissimo stronzo e penso sempre a te, finalmente questo stronzo di Cruciano è andato nel cesso. Grazie Cruciano, per le cose che tu fai è come una purga. Adios. Vamos, grande stronzos. So much I wanna do. And tonight. Cruciani sono appena stato nei bagni della Trump Tower. Oro, lusso, gioielli. Ah, che pisciata! Che pisciata! Lorenzo, vorrei tornare sulla questione di Celentano e dei VIP che si lamentano per i ladri, si lamentano per le presunte incursioni in casa. E nessuno naturalmente grida razzismo, nessuno dice oddio, oddio, le armi, i pistoleri, eccetera, eccetera. Anzi, comprensione, addirittura rinforzi. Pare che il sindaco di una città vicino, poi magari lo sentiremo più avanti, si sia lamentato perché i carabinieri vengono spostati dal suo paese verso la villa di Celentano, che è qui vicino, dove sto trasmettendo io, in Brianza, a Galbiate. Ridente paese appunto della Brianza, dove c'è questa enorme villa di Celentano protetta dalle sue guardie private. In più ci sarebbero andati vari carabinieri in questi giorni. Mi sembra una sciocchezza. Il sindaco intanto si lamenta, dopo lo sentiremo. Il sindaco, che partito è il sindaco? Vicino alla Lega Nord. Scusami? Vicino alla Lega Nord. Ah, ho capito. Intanto il nostro grande indagatore, le grandi inchieste della Zanzara, David. Sì. Dove vanno? Dove va a pescare il nostro grande indagatore? Andromercù, proprio a Galbiate, proprio a Galbiate, per capire. Sì. Ma insomma, vi sta sui coglioni questa cosa, la sostanza, vi sta sui coglioni questa cosa di Celentano che si lamenta perché alcuni si sarebbero introdotti nella sua villa. Sentiamo e dunque le ha gridato, ecco. Ha gridato all'insicurezza estrema in Italia, sì. Cosa che se lo faceva un leghista qualsiasi lo dipingevano come un mostro. Pronto? Buonasera, con l'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Dica. I controlli alla villa di Adriano Celentano vanno a scapito di voi comuni cittadini? Io non sono nessuno e loro non sono loro. Ho capito che sono privilegiati. Io sono proprio qui vicino, non so se sentirmi più tranquilla o meno, perché vabbè, addirittura vedo passare le unità cinofile, mi sembra anche un po' esagerato. Lei signora cosa pensa dell'incursione di queste persone nella villa di Celentano? Io penso che se era gente che voleva proprio fare delle cose importanti, non è che si presentavano poi andavano via. Mi sembra quasi tutta un po' una bravata questa, che a me sono concesso che sia successa. Lei è preoccupata? Io sono più preoccupata per tutti i furti e furterelli che avvengono qua, che sono una cosa pazzesca, che ho persino detto ai carabinieri, ma ammazzatene qualcuno di questi balordi. Sì, pronto? Associazione Italiana dei Sondaggi. Signora, lei è infastidita dalle vicende di Villa Celentano? Perché 20 giorni prima hanno rubato nelle case qui, i carabinieri non si sono visti, cioè sono venuti quel giorno che li chiami, poi basta. Mi dà fastidio il fatto che vengano per lui e non per noi quando abbiamo bisogno. Anche noi qui, cioè, hanno rubato. Non mi dà fastidio che vadano su, però che vadano su ogni 5 minuti, avanti e indietro ogni 5 minuti, adesso per lui. Cosa ne pensa dei Celentano e del fatto che quasi tutti i carabinieri della vostra zona vengono utilizzati per sorvegliare la loro abitazione? Però quando hanno rubato me 4 volte non si è mai fatto vedere nessuno, quindi noi non siamo nessuno, lui è Celentano, quindi... Pronto? Lei conosce sicuramente i fatti a Villa Celentano. Sono state anche a casa mia, hanno tentato di rubarmi anche a casa mia. Rubano a manetta, hanno girato tutte queste case che sono qui intorno. Non so voi che ti dica io. Lei ritiene che la famiglia Celentano sia privilegiata? Celentano non è come noi. Anch'io ho chiamato i carabinieri. Sono venuti qua, hanno fatto il sopralluogo e stanno rubando dappertutto. Pronto? Signora, cosa ne pensa dei fattacci alla villa di Adriano Celentano? Non me ne frega niente. Le grandi inchieste della Zanzara. Ma mi sembra, no? Come quelle inchieste, quelle domande che fanno dalla vostra parte. Sono per accanirsi, figuriamoci. Dice, ma scusatemi, ma se un immigrato clandestino stupra vostra figlia, urina per strada e scassina la vostra casa, lei che cosa farebbe? No, me lo dica tranquillamente. Se un immigrato clandestino, no? Ma che c'entra? Scusa, questi qua sono giustamente incazzati. È la domanda posta così, sono, no? Giustamente incazzati, perché? No, ma mi faccia parlare. Ma se un immigrato clandestino stupra vostra figlia, scassina la casa e poi urina per strada, che cosa farebbe? Ma scusa, Davide, abbi pazienza. Allora, Celentano ha gridato al lupo. Ma dai, sulla lupo. Ho capito, ha parlato di insicurezza come qualunque altro. Come al solito. Come qualunque altro cittadino. No, perché poi ragazzi, alla fine gli hanno mandati i carabinieri. Se uno lo fa, se un cittadino qualunque fa la stessa cosa che ha fatto Celentano, giustamente perché non ci sono i mezzi, le istituzioni se ne sbattono i coglioni, dai. Massimo dalla provincia di Ancona, dai. Sì, buonasera. Dimmi Massimo, dimmi. Volevo esprimere la massima solidarietà al mio collega autista, quello che è stato assalito da quei mentecatti. Sì, bravo, mentecatti, fai bene a dire così, questo ha ragione. Io trasporto carne, quindi vado a caricare nei macelli, lui ce li porta vivi e io li porto via morti. Sì. Passo settimane intere senza vedere i miei figli e faccio questo per farli crescere. Aspetta Massimo che sento poco, cerca di avvicinare più la bocca al microfono, fai quello che devi fare. Insomma, se mi si mettono davanti, mi date l'assassino, io ti giuro gli passo sopra. No, ma io ti capisco. Purtroppo non si può fare, nel senso che non lo puoi fare perché è piede, Giuseppe, ci sono l'assicurazione. No, ma io ti capisco. Io gli passo sopra. Perché tu assassino lo vai a dire a chi uccide le persone e lo metti in galera. No, a me che sto una settimana via di casa per dar da mangiare ai miei figli. Ma infatti quello è stato fin troppo moderato, quell'amico, quel fratello. Ma se ti trovi 20 persone davanti, cosa devi fare? No, ma certo, ovviamente. Perché sono anche cattivi quando arrivano a fare queste cose qui, sono anche cattivi. Ho visto dei filmati quando vanno dei pescatori a tirare i sassi, a uno, a un cacciatore gli hanno menato. Cioè, io devo andare a prendere le botte da 20 imbecilli fancazzisti perché trasporto un animale, un pezzo di carne. Ma stiamo scherzando? No Massimo, adesso io non ti consiglio di fare quello che tu vuoi fare, che vorresti fare, perché poi ci vai di mezzo tu. Lo dico, e poi perché nessuno merita. Io gli passo sopra la testa, gli faccio esplodere la testa come una merendina. Ti ricordi da bimbo quando schiacciavi la merendina? Massimo, questi cretini, nessuno, anche se cretino, merita, anche se imbecille, anche se un mentecatto, merita di morire. Per cui è evidente che capisco la tua reazione, perché quando uno ti va a rompere i coglioni mentre lavori e magari perdi del tempo, perdi delle ore, nessuno te restituisce quelle ore, perché ci sono quattro cretini che protestano, non in generale, che uno ovviamente può protestare. Mi dice a cosa serve andare davanti a un cristiano, a cosa serve? Davanti a uno che fa il suo lavoro. Risolvere il loro problema lo risolvono così, andando a fermare un povero cristiano che magari è dalle 2 di notte che è in piedi tra la merda, perché chi porta le bestie vive purtroppo è un lavoraccio che nessuno vuol fare. Hai perfettamente ragione, amico mio, io sono solidale con te al 100% e purtroppo ancora una volta non c'è nessuno, nemmeno le forze dell'ordine, che si rendano conto che questi qua basta. Ragazzi, avete sgomberato tante cose, affrontate gli ultra dello stadio, non siete in grado di mandare via dalla strada quattro coglioni, dai via. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. Allora andiamo Alfredo, provincia di Napoli, dai. Buonasera, Crucia. Oh, eccolo qua, eccolo. Intendo una cosa, io ti avevo chiamato per un problema, poi sento che tu sei un esperto di sessuologia, no? No, io non sono un esperto di sessuologia. Parentesi. Ma io faccio l'autista la notte, quando guido mi si fa sempre il cazzo bello duro. Noi accettiamo qualsiasi discussione. Così no, perché non serve a niente. Cioè, non serve a niente, perché o parli seriamente perché vuoi parlare, non seriamente perché devi affrontare discorsi seri. Però parla, ma con un minimo di logica, no? Un minimo di sei un cretino. Mi pare abbastanza evidente che sei un cretino. Giusto o no? Vabbè, mi passano poco Castratello, però. Chi? Il Castratello, quello là che dice che è il Castratello, no? Chi? David? Sarebbe chi su affianco a te. Chi che è il Castratello? Lui così dice. Ma io perché devo parlare? Perché io devo parlare con Alfredo da Napoli? Una signora come fa lui di solito, che se la prende con le signore. No, ha aggredito nessuno, ma se vuole la mando a quel paese. Le signore parlano poco con me. Che è sta storia, il fascismo? Tu ti devi lavare la bocca con la candeggina quando parli del fascismo. Alfredo, me la fa, Alfredo, me la fa una cortesia, personale, Alfredo. Alfredo, me la fa una cortesia personale. Si sciacqua la faccia nel bagno, ma nel bagno, nel senso dove si tira l'acqua, si sciacqua la faccia un attimo e riprovi a ritrovare un minimo di lucidità. Tiri lo sciacquone, si sciacqui la faccia bene così. Bello che ti hanno detto Lota a te per la prima volta, bellissimo. Di solito lo dicono a me, com'è che sono? Si peggio di Cruciano, si Lota, peggio di Cruciano. Ogni tanto dici una cosa buona, tu proprio Ma poi la cosa, tutta questa simpatia con questi marrucchini che tiene, con questi marrucchini, ma perché non te ne vai in Africa a vivere e non ci sta tu? Anche questo è nuovo, eh? Andare in Africa a vivere, fammi capire, anche questo è nuovo, andare in Africa a vivere. Fammelo, vattin in Africa, insieme ai neri. Caro Alfredo, è bello quando parli il dialetto, Alfredo, bello. Caro Alfredo, attacca attacca Parenzo in dialetto napoletano, vai, vai, attacca Parenzo in dialetto. Ma c'è Giarici che è un siccielo, c'è tutte cose, che c'è Giarici, ma poi più che altro a te ti vorrei dire una cosa, dimmi, no? dimmi. Tu che parli sempre male della città di Napoli. Io non parlo ma male, non parlo vabbè, male. Vieni a vedere la civiltà di noi napoletani. Si è sentito ora, si è sentito adesso. È una dimostrazione. Oggi sono venuti questi del Real Madrid come li abbiamo accolti. Non da no, per questo ci mancherebbe pure che poi delle bombe atomiche dovete mettere, non ho capito. Bazooka dovete mettere, non ho capito. Ma noi pure a te che sei una luta, quando vieni a Napoli ti accogliamo con il tappeto rosso. La cultura dal cibo tappeto alla tappeto rosso forse di sangue, forse il tappeto rosso di sangue, però non esiste, non Aluta, esiste, lo, sinalo, non come esiste. Si dice sinaloto, si dice luto, ciao Alfredo, ciao. Crucia sinalote, crucia sinalatrine, crucia sinomme merde, ma basta, però già fine primo tempo, ci sentiamo la zanzara. Radio Padania e i napoletani uniti contro la zanzara. Siamo al top. Allora ragazzi, vi dicevo prima, il sindaco di un paese vicino vicino Galbiate, dove abita Celentano, dove c'è il villone Celentano. Abbiamo sentito prima villone che è una piccolo, casa che si è piccolo. Cioè, una piccolo, casa che si è costruito. Io dico con, il villone, non si può con, dire nemmeno il villone, non si può dire. Lavorando. Ma nessuno lavorando. Dice mica ha detto che ha rubato ma i soldi. Tu non diresti villone il del villone di Celentano. Ma perché bisogna dire? Nella casa di Celentano, il villone di Celentano. Ma lo diresti allora, anche può, di qualche non si può ma dire nemmeno può dire, quello. Ma lo dici con quel disprezzo pauperista che io, ogni tanto disprezzo sì, pauperista. Con quel modo un po' pauperista, tuo peloso da populista, che dici il villone di Celentano. Ma chi se ne frega? La casa di Celentano che si è costruito lavorando fin da quando era bambino, lavorando molto e avendo successo, quello che ti dovrebbe piacere anche a te, dici ha avuto successo e si è fatto una bella casa, che è un reato quello? No, su. No, allora il sindaco di un paese vicino che si chiama Pescate, Galbiate, Pescate, i paesi si chiamano tutti così, è una roba incredibile, Pescate Galbiate, c'era un pezzo straordinario di un comico abruzzese che diceva che i paesi del nord, anche quelli del Veneto, un meraviglioso comico abruzzese amico mio, non è quello che immagini tu là, Semproni, non c'entra niente, che poi tra l'altro non è nemmeno un comico, che dice che i nomi dei paesi abruzzesi hanno un suono più aspro, un suono più hanno un suono che ti dà l'idea della distruzione, della no, quei suoni complicati, difficili, che ti fanno incazzare. Scanno, per esempio, no? Il paese si chiama Scanno. Scanno. Sì, Scanno. E invece lì siamo Galbiate. Vabbè. No, Pescate. Hanno tutti i nomi più dolci. Invece lì in Abruzzo hanno tutti i nomi arcigni, aspri, sì, antipatici. Bello, bello, bella analisi. Scanno, bellissimo, un comico, un pezzo di un comico abruzzese. Dobbiamo chiamarlo un giorno. Vabbè, insomma, in questo paese Pescate c'è un sindaco che si chiama Dante De Capitani. Dante De Capitani. Sembra una roba comica. Quello una volta si è addirittura vantato di aver cacciato un trans. Di aver cacciato un trans. Ma un atto eroico pazzesco, incredibile. Per liberare la sua città dalla zozzeria. Il quale però, giustamente, secondo me si è incazzato perché dice che i carabinieri si sono improvvisamente spostati dal suo paese verso la villa. Dice, tu non ci credi a questa cosa, verso la villa di Celentano. Io lo chiamerei questo signor Dante De Capitani. Secondo me, non lo so, secondo me simpatizza per la Lega Nord, per la fu indipendenza della Padania, secondo me. Mi sa. Sì, De Capitani? Ci sono. Eccoci qua, grande sindaco, lo sceriffo. Lo sceriffo di Pescate. Ostega, bravo. Come andiamo? Sono Cruciani, buonasera. Parenzo. Ciao. Beh, come andiamo? Allora, ho preso una posizione molto chiara sulla vicenda. Sulla vicenda Celentano. Sì. Cioè, per una situazione ancora non chiara, che sono entrate delle persone, eccetera, praticamente ha attirato tutta l'attenzione sulla sicurezza. Com'è la storia? Certo, ti dico che noi siamo un paese piccolo e dipendiamo dalla stessa stazione dei carabinieri da cui dipende Calviate, dove c'è la Villa Celentano, e quindi è chiaro che se c'è un presidio personalizzato da lui, poi togli il presidio dal resto del territorio. Cioè, praticamente, sono, che cosa è successo? 25.000 abitanti con la stazione dei carabinieri piccolina, e quindi è inevitabile che poi si creino questi problemi. Ci sono meno forze dell'ordine o no? Ci sono meno forze dell'ordine sul territorio. Certo? Cioè, perché sono andate tutte là da Celentano? Ma se sono andate tutte là da Celentano, non lo so. Io ho visto nel telegiornale, ho visto delle situazioni in cui ci sono stazioni, cioè ci sono dei carabinieri lì a Villa Celentano, e quindi è chiaro che se stazionano da una parte non possono stare dall'altra. E quindi Ma cosa sta dicendo? Ma scusi, però dice o lo sa o non lo sa. Mi pare che lei non sappia, perché ha appena detto: ah no, ma io non so. Allora, o sa, no, non o è non che sa. Non so che comunque ha letto i giornali, c'è fuori. Ma ha letto i giornali, no, cosa? Io ma lei non ho parlato, però ci sono delle ho letto i giornali, mi ha confermato che comunque a Villa Celentano sono andati. Ma è chiaro che ma sono andati a vedere, no? Se ci sono problemi particolari, io dico, ci sono problemi particolari, benissimo, però fate arrivare rinforzi da altre parti, non usate i carabinieri che ci sono. Ma non ho capito, ma sono andati un attimo a fare una però verifica, scusi, lei ha detto... o stazionano là? Ma no, no, perché, ci sono comunque dei continui giri di carabinieri di quelle zone lì, ma è anche normale, per carità, i personaggi famosi vanno anche tutelati, però non è che per tutelare i personaggi famosi bisogna poi tutti gli altri cittadini considerarli... Ma certo, ma... tregua di cittadini in serie B. Però, De Capitani, lei ha detto... Tu hai detto, scusa Dante, tu hai detto una cosa molto chiara, ti do del tu. Hai Dante, detto una cosa Dante? Molto lui, Dante De Capitani. Ma Dante per me Dante è Dante, quello dell'inferno, del paradiso, dai. Scusa Dante, tu hai detto una cosa chiara. Qui ci hanno tolto i carabinieri per darli a Celentano. Ho capito, però tu certo, perché sul ma certo, ascolta, chi? C'è una stazione dei carabinieri, poniamo 10 carabinieri. Totale, certo, e tu ne certo. mandi 3 dalla parte, è chiaro che gli altri 7, voglio dire, devono stare sull'altro territorio, sono pochi. Sei incazzato perché da te mancano i carabinieri per colpa di Celentano, o no? Ma no, ma per colpa di Celentano, non è colpa di Celentano, è colpa di chi ha mandato i carabinieri da Celentano senza richiamarli da altre zone. Ma cosa vuol dire carabinieri da Celentano? Ma cosa sta dicendo? Ha ragione su questo, però, scusa. Ma è vero o non ma li hanno mandati lì mica fissi in pianta stabile, come però? No, come no, fanno un sacco di giri, no, mi sono informato. Faranno le ronde, come fanno dappertutto. Le ronde, ho capito, e allora perché fa le ronde dove arrivano i carabinieri dalle ronde? No, ha ragione lui. A vivere come brutti, ha ragione ma per lui, bisogna si pagassero le guardie private, giusto? Si pagassero. Non aveva senso, io non ce l'ho con nessuno, io però voglio che il mio paese sia presidiato. Ma certo, ma cosa vuol dire? Sul mio territorio. Vabbè. E basta. Scusami Dante, ma di che è partito vero? È Dante qui? Di che partito sei? Fammi indovinare un attimo. Io non ho la tessera di nessun partito, sì. Però ovviamente io sono simpatizzante per la Lega Nord. Ah, oh, ma è strano, ma che strano. Sindaco, io la tessera l'ho presa e l'ho messa. Ma è stranissimo, Dante vicino alla Lega, benissimo. Scusami Dante, Dante però io Dante. Ti chiedo una ecco cosa. L'altro. Ma è scusami vero, Dante, vero compagni che, di lista. Ma quando lista. Sì. Ma è vero che sei riuscito, è riuscito a cacciare pure una trans recentemente? Sì, qua a Pescate non c'è tripa per gatti. Non c'è tripa per gatti. Ma in che senso? Scusa, su questo non sono d'accordo con te, amico mio. Sono situazioni di degrado, qua abbiamo un paese. Cos'è degrado? Tranquillo. Ma che un trans è degrado? La sicurezza, e quindi noi da questo punto di vista siamo un'isola felice. Ma non ho capito perché. Continuare a essere. Ma perché un trans che cos'è? Un degrado, scusami. No, beh, però un trans che ti riempie i volantini. I volantini, le macchine, tutto il circondario, permetti che non è una bella cosa. Ma che ha fatto? Che è un volantino in cui faceva pubblicità, è come la pubblicità del supermercato. Se vuoi te la mando, No, no, ma c'è come la pubblicità della Lega. Ma sto trans, che male ha fatto? Che male ha fatto? Allora, abbiamo trovato dei volantini in questo trans su tutte le macchine del circondario, e quindi è chiaro che, voglio dire, del bene non l'ha fatto, presumo, no? Vabbè, perché ma se tu metti il volantino sulle macchine che vanno, su queste macchine poi ci salgono i bambini e quant'altro, permetti che è una cosa che non si fa. Vabbè, scusa, ma come sei riuscito a cacciarla dalla tua zona? Vabbè, questo non te lo spiegherò in un altro momento. Ma no, come in un altro ti momento? Saluto, io aspetta! Un abbraccio grande. Lasciati un parenzo e alla defecarsi non ci penso. Ehi, un top assoluto. La Zanzara. quando tu arrivi in Emilia Romagna, sulla costa romagnola, dalle Marche, appena entri, che ci sta? Bellaria. Senti che nome, Bellaria. C'ha l'aria buona. Miramare. Senti che nome turistico, Miramare. Riccione. Ti aspetti uno bello riccio, le femmine a Poggiglio. Riccione. Cattolica, tutte le suore, le prete, Papa Ratzinger, tutto in lavanda. In Abruzzo no. In Abruzzo solo se ci ami ci viene a trovare. Perché noi, a differenza loro, abbiamo cosparsi i confini di nomi inquietanti, affinché solo chi ci conosce ci viene a trovare. Gli altri si imbaurisce per i nomi e se ne vanno a casa. Ecco perché quando uno arriva dal Lazio in Abruzzo sull'autostrada, appena entra in Abruzzo che ci sta? Tagliacozzo. Ehi! Vai più avanti sta scanno, frattura, forca di penne, mozza grogna, bomba, schiavi d'Abruzzo, contro guerra, torni in parte, rapino. E che cazzo è? Lo paese billate. Sambo paura. È straordinario sto pezzo. È geniale. Vincenzo, sì. Olivieri si chiama. È geniale, geniale. È troppo bello. Perché è vero poi. Su vai nel Lazio, geniale, verso l'Abruzzo, dice tagliacozzo. Oddio, giusto, che succede a tagliacozzo? Chiudi, chiudi, chiudi. Bellissimo così. Tagliano bello la testa. Che è una bellissima chiusura, hai trovato. Brava. Era bella chiusura. Perché 8? Era molto alta. No, ma non ne trovi un'altra così bella. Era bella alta. Ma sono le 8. L'incoglionito. No, è un peccato. Ormai l'hai usata. Ma mancano 50 minuti. Ho capito, però era bella così. Dai. Perché era proprio un climax. Hai costruito un bel musichetta, insert audio, tuo commento e chiudi, è bellissimo. Ma proprio dal punto di vista anche televisivo lo dico, che non capito televisivo, che c'entra, no, radiofonico, visto radiofonico, cioè hai capito, hai messo il rientro, musichetta bella forte pompata, battuta, tuo editoriale, via, chiudi, ciao, grazie, a domani. Ma era più bello. Stai zitto, ciucciacazzi. Ecco l'altra prostituta lì. Prostituta di Pordenone, penso. Francesco da Milano, vai! Francesco. Vai Francesco, vai, vai, che siamo ancora carichi. No, retta a Parenzo, non dare retta a Parenzo. Ma no, io sono oltre i vegani, i vegetariani, i crudisti, gli onnivori, eccetera. Bisogna distinguere un po', perché si fanno troppa confusione. Troppo. Io ho fatto un digiuno di 21 giorni, no? Che hai fatto, scusa? Per cui ho fatto un digiuno di 21 giorni. E perché, cioè, per 21... scusa, perché mai? Perché volevo, cioè, stavo facendo alimentazione naturale, medicina, vabbè, naturale, eccetera. E ho fatto questa roba che naturale. A me fa impazzire questa cosa. Ripeto le parole, ecco, naturale. Oh, ma senti, che le... cazzo vuol dire alimentazione naturale? Perché io che invece che faccio? Alimentazione artificiale. Io no, che mangio la bistecca, no, che mangio. Tu fai, che ne tu so, fai quella. Ma no, ce n'è. Ce mi fanno impazzire a me queste cose. Sì, l'alimentazione, certo, naturale. Ma, ti ma fa sembrare tutto quello che fai tu. Hai ragione. L'alimentazione con le siringhe, con i con le pillole, l'alimentazione naturale. Ma sì, scominci dagli onnivori, dai vegetariani, dai vegani, i crudisti, i fruttifori, i frutivori, i fruttifori. Allora c'è, che una, vuoi, dimmi. C'è una gamma infinita. Ah no, sì, senti, io chiamo principalmente perché adesso sto mangiando frutta. Io dico medicina naturale perché secondo me fa bene, ho avuto dei riscontri ottimi rispetto alla salute. Cioè sei fruttariano? Ma io, ecco, a me mi stanno sulle palle le definizioni. Io sto cercando, cioè, di mangiare stai andando la frutta, verso il fruttarianesimo, cioè, sto cercando di, no, no, io sto cercando di mangiare la frutta. Ma scusa, ma se tu, ma se frutta, tu stai mangiando, anch'io mangio la frutta, se tu stai mangiando più frutta, noi che cazzo frutta ce ne frega? No, cioè, ma guarda che è incredibile, sto andando, mangio più frutta. Va bene, qui accogliamo tutto. No, no, però... no, aspetta Giuseppe, a me, io chiamavo perché avevo bisogno che mi mettevi in comunicazione con Max Gaetano, quello delle frutta. Ma io adesso non faccio, io per carità, se tu hai una mignotta la procuro, va, no, bene, però ti do qualche, sì, numero di telefono, paga, ma addirittura con i fruttariani vuoi essere messo, ma chi paga, ma vuoi essere poi messo in collegamento con i fruttariani, amico, no, mio, io ti mando, no, a fare il culo, no, sta a sentire poi, vabbè, ciao, ti saluto, ciao, no, ciao, no, cercata, ciao, che vuoi, dimmi Giuseppe, non to, Giuseppe, dimmi che, no, vuoi, non ti ho detto cosa ha messo, le cose, ci sono delle chicche, per esempio quando ho fatto il digiuno mi si è ingrossato l'uccello, vabbè, dai, basta con queste stronzate, non ne posso più, vattene a casa, via, non mi interessa, il cervello, insomma. Il cervello si è ingrossato, qualcos'altro. Vittorio Sgarbi con noi, buonasera. Molto, molto bene, eccoci qui. Ciao, allora, professore, mi hanno detto che intanto hai rimorchiato una nel frattempo, come al solito, insomma, no, non ti, no, sei... ho fatto degli studi così, non ti sei fatto mancare niente come al solito. Lo sai, no, che c'è un signore che si chiama Forchielli, il signor Forchielli. Beh, bravissimo Forchielli, sì, certo. Allora, che tu hai attaccato dicendo, sì, ma chi cazzo è sto Forchielli, no, che, no, dà, no, aspetta, chi cazzo è Forchielli, che dà lezioni sull'Italia, ma bravissimo, sul... sì, fa ma non in Cina, ma fa giustamente lui dice un non si può mettere lì a fare il coso, no, a fare il giudice, sì, di tutto, no, dice Vittorio, dice chi cazzo è o no. Cioè, tu questo dicevi? No, inizialmente lui era lì con un esperto di questioni economiche americane. Come c'è la maniera di parlare contro Trump, qualunque cosa sia, ha subito fatto la prima gaffa, perché ha detto che tutto si è precipitato, le borse, dopo tre giorni le borse sono salite. Ora, a me non me ne frega niente di Trump. Sì. Non sono convinto che sia una persona su cui si può contare, però mi sembrava intanto meglio di Obama e di quell'altra, di Clinton, quei due balordi. Non aveva ancora bombardato e ucciso nessuno, per cui parteggiavo per lui, in quanto poi se peggiorerà, se farà cose, non lo sappiamo. L'economia, questo forchellone dice innanzitutto che la prossima volta dice che ti appiccica al muro. Senti, senti quello che dice. No, ma così ha detto. Ma dove l'ha detto? Aspetta, l'ha detto un mio amico che mi ha mandato il file. Con la pancia che ha, non è detto che si riesca. Io sono Aspetta, guarda, senti. Alberto, ma chi è Sgarbi? Non lo so, però la prossima, se per caso l'incontro, lo devo staccare dal muro come una decalcomania. Lo devono staccare dal muro come una decalcomania. Poi sostiene di aver avuto delle donne in comune con te, il forchellone, sì. E che tu avresti il pisello piccolo, così sostiene. Cioè, così mi avrebbero... Sono argomenti su cui è difficile misurarsi, insomma. Certamente, dal punto di vista dei valori di mercato... Una donna che sta con Forchielli è una che si accontenta, quindi sarà stata con lui per penitenza, immagino. Doveva ad appentirsi di qualcosa e si è messa con Forchielli. Perché tu dici non è nemmeno paragonabile. Io penso, diciamo, in generale, che qualunque donna sta con un altro dopo che è stata con me, o mentre sta con me, lo fa per penitenza. Ma con Forchielli è evidente a chiunque. Potrebbe essere, non so, il cuoco di un convento di monaci buddisti, non so. Non mi sembra, l'ho visto così come l'ho visto. Ma poi soprattutto non l'avevo mai sentito nominare, per cui se tu dici... Cerchiamo un esperto di economia, Bagnai, per dirne uno che ha una posizione eccentrica di questo qui. Poi mi sono informato, quando mi hanno detto che era un luminare, dice che ha fatto degli affaruccoli, soprattutto poi possiamo dire che lui ha una piccola corte che lo protegge al resto del Carlino, non è detto che la proprietà ritenga che la sua figura debba essere così protetta, quindi se fossi in lui sarei più tranquillo. Insomma, che senso? Non ho capito, in che senso? Nel senso che lui ha una rendita di posizione, avrà scritto forse sul Carlino, io oggi scrivo sul Carlino, sulla Stampa, sulla Nazione, sul Giorno, tutti i giorni, c'è un mio editoriale di... Signor Forchielli, Forchielli. Ecco, Forchielli ha come unica sua, diciamo, tutela di considerazione ha il Carlino. Però non pare che goda di questo grande... Comunque gli piace, molto, gli piace molto la figa, Gli piace molto la figa. È alla figa che non piace lui. Non sappiamo adesso, entriamo in abbastanza naturale, però dico, non me ne frega, è un caso minore. So che molti si sono divertiti, ma hanno scritto persone che non conoscevano forse neanche lui, dicendo che gli è piaciuta molto la forma. Chi cazzo è Forchielli? Che voleva dire semplicemente l'autorità è fatta di credibilità, ma è fatta anche di notorietà. Parenzo forse non è sempre credibile, ma è noto. Sì, più noto di Forchielli, più noto di... L'essere noti apparentemente non è nulla, perché uno può essere noto e essere un cretino, però è un dato positivo, concreto, fisico. Vacchi, per esempio, che ha una sua notorietà, è meglio di Forchielli, perché la notorietà, anche se fosse l'uomo più vuoto del mondo, è un valore in sé. Essere noti è già una cosa. Dipende, no, guarda che è noto Forchielli negli ambienti dell'economia, è noto tra gli economisti. Comunque questa cosa qui... Secondo me neanche voi sapevate chi era. Parenzo forse lo sa. Ma no, perché frequenta Radio 24 la mattina. Senti, io ti voglio dire una cosa, ma è vera questa cosa delle dimensioni che dice lui? No. Ma no, ma a parte che tu sei troppo interessato al cazzo. Sì, ma è incredibile. Delle dimensioni normali, non mi sono mai preoccupato delle dimensioni. Hai dimensioni normali? Però, si può consultare qualche esperta del ramo, cioè del mio che ne so, beh, io non lo so quante sono le tue dimensioni, non le conosco, siccome tu saranno come le tue, ti disveli, normodotato, sei normodotato, ecco, questa è l'unica parte di me che è normale, ecco, questo è interessante, normale, vedi, questo però è interessante. Abbandoniamo un attimo questa misurazione pene, no, perché se tu lo dici, sentire dall'amico Vittorio ha detto una verità, una verità ha detto, cioè rispetto ad altre parti del suo corpo, per esempio il cervello o per esempio altre qualità che ha, che riconosce, tutti riconosciamo, per quello che riguarda le misure del pene è normodotato. Però devo dire che sono anche normo consumato, nel senso che è stato molto usato. Quindi ormai non tira più. No, ma non è che non ti fessi avanti. A un certo punto il piacere di scopare è legato anche al fatto che c'è la ricerca di quello che non conosci. Quando cominci a conoscerla, a questo punto, cioè, hai bisogno di cambiare continuamente, diciamo, questa un po' cambiare, un po' anche che non c'è molta differenza. È anche molto difficile ormai, diciamo, il tema fondamentale che va bene per stiamo parlando, perché mi piace di più che non il tuo interesse per gli uccelli. No, è l'erezione. La quantità, a parte anche quella interessante fino a un certo punto, la quantità di fighe depilate. questo mi pare il tema fondamentale. Ma questo, beh, questo lo sappiamo, che purtroppo è una vecchia, tu una sei, nuova. Io e te siamo della scuola del. Sì, assolutamente. Siamo della scuola del. Parenzo per la depilazione totale. Mi no? sembra di sì. No, mi sembra ma di sì. Su questo non mi sono recentemente mai pronunciato. Volevo invece spostare, ma con il tono della conversazione, che va benissimo. No, su Celentano. Su Celentano, no, anche sull'inchiesta Consip. Volevo avere un parere su questa inchiesta. Questo è interessante. Posso dire questo? Sì. Uno degli errori dei governi, non so se Berlusconi o Renzi, è avere fatto qualcosa per cui tutti noi, anche Luciani e anche Parenzo, possiamo essere criminali. Senza che dubbio. È la formula grottesca, brutta, ma con una sua suggestione del traffico di interessi, di influenze. Vuol dire che tu sei un totale coglione che non conosci nessuno. Quindi non so, una persona ti chiede di pubblicare un libro, tu me lo chiedi, io ti aiuto a pubblicarlo, è traffico di influenze. Se non c'è più democrazia, qualunque oddio, livello, dipende dalla cosa pubblica, dipende. Soldi pubblici in questo però caso. In questo caso i soldi pubblici prevedono qualcuno che non c'entra con, non è un funzionario insomma, pubblico, per te è tutta una stronzata, ma per una te. Gran puttanata, se avrà favorito qualcosa sulla base delle sue conoscenze, cioè ti fidi di Woodcock? Ti fidi di Woodcock tu? No, di Woodcock non mi sono mai fidato e credo che uno come Woodcock, se fosse una persona seria, si dovrebbe essere dimesso da molto tempo, perché uno che fallisce con soldi miei decine di processi inventandosi una serie di cose che sono fuori di ogni logica, dovrebbe avere il pudore e l'etica di dire mi dimetto perché ho fallito una, due, tre, quattro, cinque, i magistrati sei. A punti. Ma sì, a un certo punto alla decima volta che sbagli che se te ne vai a fare nulla, il culo dici sì, vabbè. Beh, credo, non è che devo pagare per forza uno perché faccia l'inchiesta su Vittorio Emanuele IV, sarà un pirla ma non c'era niente dietro. Non è che mi deve chiamare Totti contro Totti. Perché tu dici che alla fine Tiziano Renzi uscirà assolto e Renzi. Sono assolutamente sicuro. Parteggio per Renzi contro Grillo e trovo che Grillo con questa cosa di gaff di sul so padre, che, sul padre dice una cosa molto sgradevole, perché mi pare che la lettera di Renzi sia molto ha attaccato umana, il padre dicendo appunto marmandeggiato sul padre di Renzi. Tu che sei molto attaccato a tuo padre, pensa te, certo, se Grillo attaccasse tuo padre, cioè. La rottamazione di cui parla è la battuta, anche quella forse infelice, se è mio padre ne deve pagare due volte, ma è rivolta a se stesso, non a lui. Non è contro il padre, Grillo, è contro te. Grillo addirittura ha criticato Renzi sul padre, cioè una cosa pazzesca, sì, su questa dichiarazione. Una cosa sgradevole, poi per un ebreo dovrebbe essere una ragione di grande, ma poi poveretto, questo qui è un altro spompato. Sì. Quando è andato a Roma per dire che lui comandando non si faceva lo stadio, se non in altro luogo, dopo due ore è stato smentito persino dalla Raggi. Ma dico, vuoi stare zitto, vuoi dire una cosa che è quella, ammesso che quella demente non sia in grado di dire da sola, in due ore o dieci ore cambiare tre volte parere è abbastanza grottesco, insomma, no, siamo alla frutta. In compenso voglio darvi una notizia che qual è il Movimento Rinascimento da oggi online ottimo, ha già fatto un numero altissimo di tesserati e 28.000 contatti. Molto per bene, ma insomma la candidatura a Padova c'è o non c'è? Ecco, poi su quello di Padova io devo ho fatto una letterina, un fervorino affettuoso con Pionci che era rimasto molto addolorato perché io ho detto... gli hanno riferito la cosa nostra, riguarda che erano battute. Io se faccio una lista a Padova la faccio da solo e poi sai che girare Parenzo. Poi non so, magari al ballottaggio appoggio Bitonci. Bitonci mi era molto morbido. Il fatto che noi abbiamo un cavallo che è pigro, perché questo Parenzo è pigro. La lista Parenzo-Porchielli. Porchielli. A Padova spopolerebbe. Senti, un'altra cosa, ma Vendola dice che vuole un secondo figlio e dice no, che l'Italia... No, è l'Italia, lui dice io sono papà, però l'Italia non mi riconosce il diritto e vuole fare il secondo figlio, io lo amo disperatamente. Quello è l'argomento che preferisco, nel senso che parlando seriamente, al di là dei diritti di chiunque, per le donne il problema non si pone perché almeno una madre c'è, per gli uomini non rompano i coglioni. Qui non è questione di destra, sinistra, le conquiste sociali, il governo Renzi che ha fatto questa cosa civile, ci piace anche voi che sono gli unici, a parte che il matrimonio è assolutamente devastante, fino a 40 anni fa aveva un senso, adesso bisogna liberare l'umanità dal matrimonio, come dico sempre, però non puoi togliere al figlio la madre, da Pasolini in avanti la madre è tutto, e dunque? Queste puttane di donne, che le donne non difendono neanche l'8 marzo, che vendono il loro corpo per 20, 30, 40 mesi, dopo che hanno tenuto il bambino dentro e poi lo regalano a due poverini che devono fare gli schizzettosi, è una cosa immonda, ma non per il mondo cristiano. Ma che immonda? Ma quando la madre si ha ragione su questo. Il bambino sta nel corpo della madre per 9 mesi. Ma non mesi. Le puoi chiamare puttane, dai, su. Peggio di così, invece di vendere la figa, vendono di più. Vendono la figa per 9 mesi. Ma cioè, sembra di Nolfi, sembri quando fai così, dai. No, ma non lo dico, lo dico per fare poi togliere la parola puttane, ma perché le donne non difendono le donne? Ma sì, perché le difendono, infatti ci sono un sacco di donne, ci sono un sacco di donne che difendono questa roba qua, che sono contro la l'utero in affitto. Ecco, ma io non capisco non perché sentite molto, ma quando hai sentito quando senti Vendola, quando senti Vendola, Vendola dire io voglio un secondo figlio, sono il papà. Suggerisco di prendere un figlio anche col suo amico, che mi piace moltissimo, adottandone uno che è in condizioni di difficoltà e di miseria, uno già infelice in un mondo di disperazione con i figli, con i genitori uccisi in una guerra. Sarebbe molto più di sinistra, sarebbe molto più di sinistra. Io questo vorrei, non ho nulla al contrario. Se due uomini prendono un ragazzo abbandonato, sì, certo, va bene, ma che debbano pagare perché lo sperma di uno dei due fischia, sì, in una che lo utilizza per vendersi e prendere. Mi pare una, a me pare abominevole. No, ma su questo lei può anche farlo. Ha ragione Sgarbi, su questo ha ragione Sgarbi. Senti, l'ultima cosa. È il sequestro dell'utero. È un sequestro. No, ma adesso è il sequestro dell'utero. Non ho capito, il figlio prova, questo è divertente. Va a cercare di prendere la testa, come è sempre stato nella storia, sì, dell'umanità, e trova l'uccello, cosa fa? Prende l'uccello, il latte dell'uccello, cioè, vabbè, cosa che non questo funziona. Vabbè, poi se immagino lo mettono, me lo diceva un amico omosessuale all'antica, molto, se poi se lo tengono a letto fra loro, i due, il papà e il papà, se lo tengono con loro. Allora, vabbè, questo è allora che se lo tengono a letto tra loro, che vuol dire? Che vuol dire che se lo tengono a letto tra loro? Che fanno? Lo fanno diventare frocio, lo fanno diventare omosessuale? Beh, certo che creano un effetto psicologico molto turbativo. Cioè, creano gli omosessuali, creano omosessuali. Non so, forse non diventano omosessuali per rabbia e schifo nei confronti dei due padri, però certamente il ragazzo cerca il seno. Tutta la pittura che abbiamo visto negli ultimi 2000 anni, cercherà il seno, si beccherà il biberon. Madonna con il bambino che è madre con il figlio. E si beccherà il biberon. Adesso abbiamo il bambino con due San Giuseppe? Ma che roba è? Vabbè, comunque i grillini si scatenano contro il vitalizio, caro Vittorio. Sono scatenati contro il vitalizio. E io dai, mi scateno con il grillino. I grillini dovrebbero fare i parlamentari gratis, siccome non valgono nulla. Meglio il vitalizio a uno che ha un minimo di capacità dimostrate per quello che ha fatto. Cioè, dunque, meglio il vitalizio a te. Meglio il vitalizio a te. Loro, lo stipendio, ma hai notato che quando ho visto gli stipendi, nessuno di questi qua ha mai avuto un lavoro? No, nessuno, tutti zero. Il culo di prendere il lavoro grazie ai voti di grillo. Questo è vero. Ogni civiltà democratica, prendi i voti e poi rompono i coglioni a te, e poi rompono i coglioni a te, che c'è il vitalizio. No, cosa li passa? No, voglio dire, è una tragedia. Bisognerebbe proibire ai grillini di prendere lo stipendio, così imparano a fare gli spiritosi. Allora, vai a lavorare, vai a lavorare, poi se dimostri che se lavori ti diamo un'integrazione come deputato, guadagni 3.000 euro, te ne diamo 2.000 come deputato, non guadagni, vaffanculo, fai il deputato gratis, lo fai gratis in amore della patria. Perché siccome combatti per il bene comune, fallo gratis. Invece no, prendono i soldi, poi si lamentano il vitalizio degli altri. Poi i vitalizi che ormai sono diventati, lo diceva, vabbè, la Repubblica, tu prendi 9.000, non è che prendi poco. Sono ben felice, me li merito anche. Io ho fatto ben più di qualunque altro di loro. Cioè tu dici, mi merito 9.000 euro di vitalizio. Ma siamo pagati i contributi. Non so neanche quale sia il vitalizio, però vai, i miei figli, sono felice che vada lì. Ma non è che io me lo sono dato da solo. Beh, certo, le norme, ho capito, le norme, però le norme sono una vergogna, dai. Beh, tu. Ho fatto 25 anni di Parlamento, quindi. Vabbè, ciao Vittorio, ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Mi state facendo soffrire stasera, capito? La Zanzara. E quando non mi masturbo più, come ha detto il rabbino, la mia vita è cambiata. Sono circa 2 settimane che non spreco il seme, lavoro meglio, ho più successo con le donne. Grazie rabbino, grazie. Andiamo avanti. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Zanzara. No, you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tyrant. Se lo interrompo la trasmissione, me ne vado. Allora, qualcuno, Parenzo, consiglia, propone con un grande sondaggio, con una raccolta di firme, addirittura una 24 ore di Zanzara. Beh, sarebbe meraviglioso, devo dire la verità. Sì, si può fare con un importante integrativo. Sempre certo, i soldi, si può, pezzi, non ho capito. Beh, cosa devo fare? Gratis, non ho capito. No, però io trasformerei questa proposta non in una 24 ore di Zanzara, ma in una 12 ore. cioè dalle 6.30, dalle 18.30 alle 6.30 di mattina. Sì, 24 ore, ragazzi, una è troppo. Grande maratona radicale. Esatto, bellissimo, esatto, bellissimo. Una grande bellissimo. Maratona di Zanzara. Una maratona radicale. Mi sta scrivendo anche Marcello Vino Nuovo. Che vuole Marcello Vino Nuovo? Marcello New Wine, che dice vuole, vengo che vuole. Pure io. Grande, grande maratona di Zanzara, 12 ore. Io sì. La trasformo in 12 ore perché, ragazzi, sì, si 24 può fare 12 ore, 12 nessuno ore. Ci ospita. 12 ore si forse può questa fare. Stessa emittente potrebbe ospitare con integrazione per Parenzo, che vuole un'integrazione. Sì, un'integrazione importante, importante. No, importante adesso, 200 euro. 300 euro. Cosa? 500, ma dai, 500. Vabbè, ma, non 500 mi sveglio, ma non mi sveglio la mattina. Ma no, va bene. 18.30, 6.30 di mattina. Però grande con nottata. Tutti i grandi personaggi, Pannella, certo, poi assolutamente. Mario Capanna, ho sentito che per 12 ore andremo in diretta su questa ottima radio. Mi pare un'idea eccezionale. Perché, leggeremo scusi, tutti Capanna. I comunicati di Democrazia Proletaria dalla sua fondazione, tecniche no, di vero, guerriglia urbana. Però racconteremo per ore, ad esempio, come occupare una università, devastarne l'interno. Scusi, potrebbe venire in diretta qui a Confindustria, potrebbe venire qui in diretta. Potrei venire ogni giorno, assolutamente, e dirigere anche quel giornale che mi dicono si chiami Il Sole 24 Ore. Sì, che è un po' in difficoltà, diciamo, no? Sì, il Sole. Ma che cazzo, ma che titolo è? Ma come si fa a dire Il Sole non è 24 ore? Ma che roba è? Ma Il Sole c'è 8 ore al giorno. Già questo è completamente sbagliato. Va cambiato. È sbagliato alla radice. È sbagliato alla radice, in nuce, come diciamo noi, in nuce è sbagliato. Ornella da Vibo Valentia, Ornella da Vibo Valentia, sì. Andiamo. Forza, signora, dimmi, dica. Ciao, ciao, ascolta, 12 ore, 12 ore di Zanzara, chi vi sopporta? Sentire... amica mia, se lei non vuole sentire, non senta, però non ci rompe no, i coglioni. Sai cos'è, sai cos'è, che sono 12 ore di cazzate che dite? Amica che mia, se non sei. Vuoi sentire, non Ornella senti, cara, adesso c'è una proposta che è addirittura una maratona di 24 ore, l'ho trasformata in 12 ore, e ci rompi i coglioni pure sulle 12 ore. Come? Beh, sì, e vabbè, dai, diamo 12, dai, vi accontentiamo. Ma che vuole questa Ornella? Ma che vuoi tu, Ornella? Cioè, allora, io volevo dire una cosetta. Perché Ornella. Ce l'hai tanto con Celentano? Io con Celentano? A me che me ne frega di Celentano? A me non me ne frega nulla di Celentano. Sto dicendo semplicemente che hanno scoperto. A te ti rode. Che cosa mi rode? Ti rode, che c'ha il villone. A me che me ne frega del villone? Se l'hai costruito per i fatti suoi, col suo lavoro, non vedo problemi. Ornella, io abito in 30 metri quadrati, guarda, 50 metri quadrati. Certo, ecco, ho degli aiuti, beh, ho degli aiuti. Fa io vivo in un camper, ma che ci crede che ma Ornella, ma chi ma ci non crede? Vive in 30 metri quadrati, c'ha una villa in Umbria da far paura a Vacchi, al il sultano dell'Oman in confronto è ma uno con le pezze al culo, c'ha cazzo? Una villa con una chiesa dove addirittura c'è scritto che c'era un prete rode, Don Crucia, lui ma, ha fatto la villa, ma ha una lavorato. Villa pazzesca con andate locali a razzi, pauperista a del cazzo. No, io che cosa lavoro, sto lavorando. Io non ho una casa di proprietà che è una, io figuriamoci. Ma te stiamo ma scherzando. Non ce l'hai a Siena la casa. Questo fa no, non ce l'ho più, no, non è mia. Ti rode, forse questo... perché c'è perché ti sta, a te ti sta antipatico Celentano. Se fosse stato un tuo amico avresti detto tante cose belle. Ma non che è dici, Ornella? Ma che cosa stai dicendo? Sì, io a te ti sta antipatico Celentano. Sì, ma devi stare non tranquillo. So io ho criticato solamente questa roba qui che invoca la sicurezza nel paese. Ha scoperto adesso che esiste un problema di sicurezza nel paese. E poi il fatto che adesso c'è tutto questo interesse a proteggere la vita di Celentano mentre quella dei poveri cristiani non viene difesa. Ma è così l'ha detto pure il sindaco interesse. Prima. L'ha detto il sindaco, tal Dante, sto sindaco Dante, ma cosa dite? Si paga? Sì, però io povero Cristo. Sì, scusa Ornella, io non ho capito una cosa, innanzitutto tu vivi in un camper? Sì. Vivi in un camper? Sì. Sì, vabbè, era una battuta. Ah, vabbè, ho capito. Io vivo in 50 metri quadrati, per cui inutile. No, non dire così perché. No, ma che dici? Ma quale 50? Palazzi in Piazza di Spagna, la sede dove. Ma di chi stai ma parlando? Ma adesso facciamo. Ma che cazzo no, dov'è la piazza? Dov'è che è quel palazzo? Virode, ma a me non rode niente. Ma Cruciani che fa il pauperista, che c'ha un palazzo intero in Piazza di Spagna. Ma non che è vero, ma non è vero. Ma guarda, sai, pubblica i tuoi redditi. Pubblica ma i tuoi ma redditi. Che c'entra? Ma che c'entra, pauperista? C'è un mio detto che dice: chi di povertà ferisce, di povertà perisce. Ma che dice? Vabbè, Giulio da Parma, dai, Giulio. Giulio. Pronto? Dimmi, dimmi. Io volevo dire una cosa sui Rom, perché... Sì, dimmi. Sì, io non sono d'accordo che i Rom rubino, perché sono venuti anche due volte a casa mia a rubare, però mi fanno più incazzare i nostri politici, che quasi tutti rubano. E nessuno si incazza. Ma chi te l'ha detto che nessuno si incazza? È pieno di gente che c'ha i forconi in mano, pieno di gente incazzata. Non dire stronzate, dai, Giulio. Su, non dire. Stai dicendo una serie di puttanate inaudite. Puttanate inaudite. La gente si incazza con tutto: con i rom, con i politici, con chiunque. La gente è di per sé, almeno quella che chiama qua, non solo quella che chiama qua, è come dire di base incazzata. Peraltro, senza la gente incazzata, molte trasmissioni televisive, diciamo il 100% delle trasmissioni televisive, può darsi pure radiofoniche, chiuderebbero battenti. Dico, chiuderebbero battenti. Io, baracche e burattini, diciamo, inutile che facciamo troppo i complicati. Ruba, che ha uno stipendio e delle pensioni. Vabbè, ma i politici non rubano tutti. E poi rubano. Rubano che? Rubano che? Non rubano. Amico mio, se sei rincoglionito non è che puoi chiamare essere rincoglionito, però. Certo. Scusami. Cioè, che vuol dire rubano o non rubano? Che se mi sembri... Ah, i politici non rubano. Ma cosa vuol dire? Ma che... No, siccome dicono i rom, bisogna metterli in galera. Alcuni rubano, alcuni rubano. E invece i politici no, stanno tutti fuori. Ma stasera l'hai fatta la flebo o no? L'hai fatta la flebo stasera? Mi pare di no. No, no, io non ho mica bisogno di flebo. Questo però non lo so. Non è detto. Vabbè. Fermi tutti, fermi. Niente. Fermi, cioè, niente. Vabbè, non chiama niente, i politici rubano, no, i rom. Però rubano più dei rom. Lo dice così, con sta voce tutta battuta, tutta... Sembra uscito fuori dall'ospedale un minuto fa. Vabbè, d'accordo, tutto va bene. Passiamo alla linea. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Sono nel letto con la mia ragazza. Lei vuole fare l'amore, ma io voglio ascoltare la zanzara. Io ascolto la zanzara. Ok, allora tu vuoi che ti leghi, giusto? Sì, legami. E poi vorrei che mi picchiassi un po' e mi facessi un pompino. Ok, un pompino e ti picchio. No, no, mi picchi e poi mi fai il pompino. Se l'ordine non è quello giusto non mi diverto. Legami, picchiami e fammi un pompino. Questa era Woody Allen, Parenzo, non certo, protestare. Certo, l'ho riconosciuto, allora è straordinario. Grande Woody Allen. Certo, certo. Ecco, questo qua. Dazed by careless words, cozy in my mind. Intanto il peggio di Radio Padania. Fermi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. I negri, i nigeriani, i senegalesi, tutta quella razza lì, gestiscono il mercato della droga in tutta Italia. Pensi che la finanza non lo sa? I negri gestiscono il mercato della droga. Le palme in Piazza Duomo, senti. Non permettere al tiranno di accecarti. In Piazza Duomo, su banane e palme, ci aggiungerei un po' di scimmiette e la Kienge che fa la capa. Capito, Parenzo? Ecco, scusami, io poi oggi mi sono arrabbiato. Ma questo qui è razzismo o no? Vabbè, mi sono arrabbiato con... Ma come, vabbè? Ma questo è razzismo o no? Le scimmiette, la Kieng sulla palma. Ma che cos'è sta roba? Figlia della libertà. Diciamolo, razzisti. Ma che razzisti, dai, no, sono due battutine, no. Così, ah, dai. Battutine così, va bene, battutine così, benissimo. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. L'imperatore Bergoglio, arcivescovo di Roma, dovrebbe dirci se Satana fa parte del suo prossimo e anche del nostro, o se è da combattere. Grazie. Sentire quanto è forte la tua voce. Guida il popolo nella tempesta come una madre e il figlio. C'era Centinaio come ospite e c'era Parenzo, mi sa, adesso non lo so. È sempre questo razzista. Cioè, io sono stanco di sentirmi dare del razzista. Non possiamo querelare un po' anche noi. Cioè, querelano loro, noi non possiamo fare niente. Tutto per la libertà. La Lega vuole querelare Parenzo. Oh, ma il bue, sì, bravo. Il bue che dà del cornuto all'asino. Ripensamenti. Donato Varese, grande ritorno, ragazzi. Donato, ah, Donato, ah, Donato. Ciao Donato, ah, caro. Beh. Ciao, ciao, ciao, ti abbraccio, Giuseppe, ti abbraccio, ciao, forte. Ciao Giuseppe, ciao. Sempre con questa voce di ascolto. Fammi ascoltare, Davide, fammi ascoltare. Dai, Giuseppe, ascolta. Allora, io qua è inutile che ci mettiamo a parlare, sì, di tante, di tante cose che purtroppo non credo che siano importanti. A me, io ho vomitato ieri sera, ho vomitato anche stamattina, ho visto perché quel porco di Parenza, Parenzo lì che diceva, i bambini, le noccioline, le noccioline, quella gente lì deve tornare nella grande Africa! Ma chi urla? Tutti devono entrare nella grande Africa. Ma perché urla così? Non capisci. Vediamo anche questo figlio di puttane che è a fianco, chissà quanti soldi prende che per rovinarci l'Italia. Allora, il partito islamico si sta organizzando in Italia per entrare in Parlamento. Questo voglia che è a fianco, bisogna fermare il partito islamico che vuole entrare in Parlamento. Voi lo sapevate questo? No, non ci risultava però, per carità. Scusami. Allora, io a questo porco, io quando parlo di quel porco che è a fianco, io parlo di Mefistole. Mefistole che purtroppo vive in Italia. Vive in Italia e ci sta purtroppo catapultando in un inferno. Io non voglio l'Africa in casa. D'accordo? Sono un fascista, sono un razzista. Benissimo. Io non voglio l'Africa in casa. Ma quando Parenzo allora, dice in che Italia ci sono minimo 20 milioni di italiani. Non vogliono l'Africa in casa. Non lo vogliono. In televisione, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, tutti quei figli di puttana a parlare di mondialismo, di multiculturalismo, di accoglienza con i soldi miei. Ma allora, quali mangiare la lira, dai, ma quali tuoi? Nonostante non sia più giovane, e neanche più lucido, fuori tutti da questo paese. Prendiamo le sinistre, bruciamo le vive. Allora l'Italia ormai è perduta. L'Italia è perduta. Prendi sto figlio di puttana. Ma chi è questo? Chi sarebbe? Uccidilo. Io devo essere ucciso. Perché è contro gli italiani. Ma scusate, allora, Donato. Allora, poi si ferma e dice allora. Ma il fatto che Davide dice dovete andare a Lampedusa a guardare le bare bianche. Dovreste andare lì. Dei bambini, vedere gli sguardi. Non ti scalda un po' il cuore questa cosa? Ci andassi a vedere. No. Ma io dei bambini li prenderei e li porterei su un aereo al loro paese. Li metterei davanti ai loro dittatori. Se li cagano i loro dittatori. Noi abbiamo qui una dittatura, una magistratura rossa che è dittatoriale. Cosa abbiamo? I comunisti ormai occupano tutto. Ah, i comunisti. Questo figlio di puttana. Sì. Figlio di puttana, non intendo perché la mamma fa la puttana. Sarebbe, Fibre, e perché lui è maledico. Chi di preoccuparsi? Invece di piangere dietro una zingara, una squadrina vacca schifosa che nella vita non ha fatto altro che deturpare e rubare, quella rinchiusa. La prima cosa che mi viene in mente, dei 50.000 italiani senza residenza. Senza? 50.000 italiani. E piange, fa finta di piangere, sentilo. Ma perché fa finta di piangere? È un razzismo! Ma perché? Io voglio capire perché lo pigli per il culo sul fatto che lui si piange per l'italiano. Ma non ci piange, allora, ma è uno spostato, Giuseppe. Giuseppe, tu verrai ricordato, ricorda cosa. Tu verrai ricordato. Noi non siamo dei grandi amici. Però tu verrai ricordato. Senti, la distruzione di Crociani. Ha dato voce a uno come me. Pensa te. Mamma mia! Pensa te come verrai ricordato. No, perché non c'è uno scafandro di merda. A un miserabile, a un lurido schifoso. Come verrà ricordato sulla tomba di Crociani ci sarà scritto: diede la parola Donato da Varese. Scusami, Donato, lui dice che vuole partecipare alla manifestazione del comune di Milano a favore dell'immigrazione dei migranti. No, non è a favore dei rifugiati. Magliorino! Non è per gli italiani, non è per me, non è per i miei figli, è per l'Islam. E per gli stranieri. Ma dai, ma è un pazzo di corticato. Se un padre non vuole bene i propri figli, non potrà fare nulla nella vita. Anche lo sporco Parenzo, sporco Parenzi, il capitalista Parenzi, un uomo che non ha mai lavorato, gli farei scaricare 5 tir a quel 20 sporco anni che lavoro. Figlio di cane, e poi vedremo un po' se si mette io? A parlare sempre io, figlio io quando parlo di Parenzo, Parenzo è un ultimo. Sì. Parenzo è l'ultimo degli squalliti, sì. Però io Parenzo ha parlato uno statista, il capo di Stato, non lo devo assorbire, perché proprio allora, una bella cosa. Sì, che sono Cruciani, ricordati sempre. Dimmi, la tua trasmissione verrà ricordata. Ecco, sì. Penso che è merito. Anche perché hai fatto parlare una persona. Distrutto, comunque io voglio fondare un partito, avrò minimo, guarda, sono scoscesi. Sì. Almeno 5 milioni italiani. Beh, adesso almeno. Questo 5 milioni italiani per difetto, liberare l'Italia da questo schifo, sì. Da quella zingara, come si chiama? 5 milioni italiani. Quella portavoce, quella zingara schifosa che addirittura ha citato il nazismo. Ha citato il nazismo! La Pavlovic, perché sì. C'era una sporca zingara puzzolente, ecco. Con le cizze che gli cadevano sulla figa. Mamma mia, che schifo. Ci sono, allora, ci sono 50.000 italiani. Che uomo schifoso che è proprio. Che persona 50.000 schifosa. Senza residenza! Non possono accedere alla sanità, non possono aprirsi la partita IVA, non possono andare all'ospedale senza residenza. Di a questo figlio di puttano di battersi per gli italiani, non per l'Africa. L'Africa è un paese splendido. Fai il tifo per l'Africa. Sono falliti con i loro dittatori, fuori dai coglioni. Questa è quello. Io faccio il tifo per una riforma del sistema sanitario italiano. Più che vabbè, perché, ma perché lo consideri pazzo? È questo che è la cosa. Tu lo consideri pazzo? Io voglio incontrare tutte le persone che vanno a cacare in Rai. Quei parassiti! Ma perché c'è la brutta gente? Ma tu adesso guardi, non pensi che nomi, talmente che sono ributtati. Ma dimmi un nome, dimmi con chi ce l'hai, dimmi un nome. La Berlinguer, per esempio, fa un programma bello adesso su Rai 3. Bianca Berlinguer. Berlinguer, se per invece dire la Meloni, clandestino lo devi dire, io a posto della Meloni sarei saltato addosso a Berlinguer, gli avrei strappato il seno con i denti, l'avrebbe ricordato per tutta la vita, ma non puoi dire che è clandestino. Ma è un criminale, ma scusa, ma perché non puoi? Pazzo, ma perché non lo querela nessuno più ormai? Ma bandito, scusa, non ho capito. Sei un bandito. Io. Sei un bandito. Vai, adesso bandito. Sei un bandito, ricordati. E ringrazia i tuoi banditi che ti hanno messo lì. Ricordati. Ringrazia i tuoi banditi. Ma chi sono? Alla tua pletora di assassini. Ma chi sono? Sono criminali. E tu sei assolto dei criminali. Ma quali sono i criminali? Scusa, Donato. Scusa, potenti. Non dei poveri. Vergognati. Non riuscirete a rovinare l'Italia. Tu, Cruciale, ti rendi conto che se io davvero lo quelassi per le cose che ha detto Donato è un no, ma tu però rispondi su tutti sì, rendi sì, conto gli toglieresti se la vita, io sì. No, voglio dire, converrai con me che io qualora decidessi, ma non lo farò perché è infermo di mente, di querelare non gli dire sì. Così no, adesso, ma totalmente lui è uno dei grandi predicatori, secondo te avrei qualche appiglio o no? Dimmelo tu, ma i grandi predicatori come può darsi, ma che cosa ha detto? Criminale, assassino, figlio di pupana, voglio dire, ma però è uno dei grandi, allora, come esistono, cosa? Scusami Donato, cosa? Come dimmi Donato, dimmi. È inutile che mi fai parlare gentilmente e te ne vorrò bene per tutta la vita, perché sei l'unico a farlo. Pensa a te. No, ma io ti considero. No, allora, ma lascia perdere, io ti considero. Io parlare in due minuti e non ho che devo gridare. Io sono l'uomo che parla con calma e se io vedessi davanti questo lurido lo farei sciogliere il suo putridume. Sarei io lurido. Ci capisci che odio che sono gli italiani. Lurido sono sempre odio, giusto. Questo odio gli italiani. Però italiani, questo mi odio. E ce ne sono tanti, Italiani. Ho compreso quel porco, l'ultimo governo, sempre Gentiloni. Io sono. Ah, scappato, che giustamente. Si muove. Soltanto siamo. Quando si guarda allo specchio siamo andati riesce bene, a capire che è vivo. Siamo andati siamo nella merda. Ci siamo nella merda. Ma il signor Bendola deve essere ucciso. E il signor Bendola che come essere ucciso? Pure Gentiloni ucciso. Pure Gentiloni ucciso. Tu hai contribuito all'eliminazione di Renzi. Ma adesso questo va al delirio. Ma noi siamo al delirio, dai, però. Perché scusa. La gente quando ha detto che Renzi è un assassino, alcuni non erano stupidi. Ma Renzi, sai che se ti hanno seguito, cioè ti hanno seguito. Ma tu sai che se qualcuno veramente lo querelasse, questo qui farebbe. Io non capisco una cosa. Ma bisogna ammazzare pure Gentiloni adesso, non mi dire. Ma Gentiloni, cos'è? Ma Gentiloni non è nessuno. Ma Gentiloni cos'è? È una sguatta di un vecchio. Ma perché nessuno lo querela? Ma è veramente incredibile, però. Ha imparato quelle quattro cose. Ma quando mi ha lavorato quel porco? ma è uno schifoso sto Donato da Varese, è una persona schifosa. Scusa un attimo, ma non Donato, puoi... scusami un attimo, ma la cosa che voglio sapere è un tuo giudizio su Bendola che dice che vuole avere un ma secondo dai, ma cosa vuoi che dica su Bendola, questa roba qua? Un secondo Bendola film. Morirà, morirà. No, ancora morire. Questa roba, guarda che incredibile. Perché stirperà i coglioni, no? È una persona schifosa, Donato da Varese è schifoso. Lui e la marita. Come lui che è il moglio. Vabbè, il moglio e la moglie è la marita. Quella è canadese. E che c'è? Sarà il cazzo. No. Che schifo. Ma chiudi, ma fa schifo. Fa gli islamici. Ci stiamo il cazzo e tu lo mettiamo in bocca. Gli islamici. Perché questi sono gli islamici. Lui dice l'Italia gli islamici. Si sta islamizzando. Già mi hanno mandato dei messaggi pericolosi. L'Italia si sta islamizzando. Va bene, Donato. Ciao. Ma come va bene? Ma come va bene? Ma basta. Ciao, Donato. Ciao. No, devi sapere che Donato è paragonabile, caro Parenzo. Allora, in America, nelle radio americane. Nelle radio americane. No, ma io voglio difendere un principio molto semplice. Donato non è una maschera, è una persona che crede in quello che dice. Sì, purtroppo, questo è il dramma. No, ti voglio dire che nelle radio americane c'era un signore che fino a poco tempo fa diceva che Obama, per esempio, era un sporco traditore. Non è che hanno interrotto le trasmissioni. Uno pagato dalle lobby, non so che cosa, le lobby palestinesi, eccetera. Che addirittura Obama era un falso. Sì, lo so. Era un per cui era. Ed era libero di dirlo, ed era libero, nessuno lo ha incarcerato, lo ha messo in galera, lo ha processato, eccetera. Perché la libertà di espressione è anche questa, è anche quella di Donato, non c'è non niente da fare. La libertà di offendere, ti però, devi di arrendere essere... di fronte ma a questa io cosa. Mi arrendo, ma in Italia se tu offendi vieni non mi interessa querelato, dell'Italia, quindi... tu devi guardare, come? Proprio tu, devi guardare al mondo, non all'Italia, tu lo ma dici, se uno diffama... che sei uno che dice Londra, New York, scusami, e poi le leggi italiane, le leggi italiane fanno schifo se non permettono a Donato di parlare. Ma certo non mi interessa. Non mi interessa, la diffamazione esiste anche negli Stati Uniti. Oltre l'Italia. Quando ti fa comodo vai oltre l'Italia. Sempre, come al solito. Quando sempre. Ti fa comodo. Sempre come per tutti, è chiaro, come mi fa comodo. Quando sempre esclusivamente quando mi fa comodo. Oh, almeno questo. Chicco! Chicco! Ecco l'altro. Ma con chi è che parla qui? Col gatto, col suo gatto. Ah, col gatto. Col gatto, sì. Chicciolone, eccolo, il mio bel pupattolone. Adesso pure il gatto se ne andrà. Riccardo da Biella per chiudere, dai. Pensa col povero gatto. Forse Mariella da Roma. Sì, pronto, vai, veloce, Riccardo, vai, dimmi. Ciao Beppe, volevo solo dire una cosa a Parenzo. Sì. Allora, non condivido praticamente nulla di quello che dice. Credo vabbè, che sia molto abile nel suo giochino che fa quotidianamente. Vabbè. Ma una cosa mi preme dirgli: sì. Come fa lui a schifarsi del fatto che tu ti fai la doccia ogni due giorni? Sì. Quando lui va allegramente in pullman con le dita nel naso. C'entra, ove è successo una volta durante uno sketch. Dai, su, amico mio. Ma sì, si mette le dita nel naso. Gli succederà di mettersi le dita nel naso. A me succede frequentemente. A me piace scaccolarmi. Mamma mia. Tirare le caccole. Tirare le caccole addosso. Ovunque. Tic-tac, tic. La scaccolate e poi tac. Ragazzi, a domani. Ciao. C'ho le palle piene. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Radio 24, libera la voglia di fare.